Ad alta voce. Silvia Pasello legge Alpinisti ciabattoni di Achille Giovanni Cagna. Sulla riviera folgorava un aureo tramonto. Il lago era una stemperatura di lapislazzuli, l'isola di San Giulio una vigorosa pennellata di roseo carnoso. Orta già brulicava per la festa dell'indomani, la piazzetta aveva una gaiezza insolita. I fruttaiuoli disponevano le loro mercanzie sui banchi allineati all'ombra degli ipocastani. Su e giù per la piazzetta e sotto i portici ferveva un insolito andirivieni di gente. Il battello del dopopranzo aveva già sbarcato varie comitive venute per la festa. Le campane della parrocchia riempivano l'aria di clangori festosi. I barcaiuoli del luogo speravano in una buona giornata, tanto necessaria dopo lo scacco ricevuto da quel maledetto battello che aveva messo sulla paglia i poveri rivieraschi. Anni addietro, al tempo degli inglesi, se un forastiero voleva traghettare da Orta a San Giulio, i barcaiuoli stretti in lega si facevano pagare a dovere. Ma adesso, in causa di quell'uccellaccio nero che beccava in un attimo da una sponda all'altra, bisognava adattarsi a pigliar 4 soldi. Il pasticcere sotto il portico sfornava allora la prima gettata di paste. I caffettieri mettevano fuori il cartellino festivo dei sorbetti e i villeggianti che pranzano presto scendevano a coppie, a gruppi, a covate alla solita passeggiata dello sbarco. In quel concerto di facce allegre circolava impettito, serio, il solito elegante solitario. Tutti avevano già notato quel personaggio così grave. Le lavandaie della spiaggia, che lo vedevano ad ogni arrivo di battello, lo avevano già battezzato signor Cornacchio. I barcaiuoli, che avevano provato e riprovato ad abboccarlo, invitandolo in barchetta, visto che non degnava neanche di guardarli, lo chiamavano l'Inglese de Mager, e i camerieri dell'Hotel San Giulio, che lo servivano, erano dello stesso parere. Né inglese né corvo, egli era semplicemente impiegato contabile di una casa del Novarese, e Torre Rulloni, ragioniere, come diceva la sua carta di visita. Buon giovane, di buona famiglia, smanioso di elevarsi e nobilitarsi, viveva librato nella perenne aspettativa di uno sguardo di dama di alto rango che fosse in grado di apprezzare la sua irreprensibile e corretta eleganza inglese. E così, per quella sua sdegnosità altezzosa, viveva solitario in mezzo al mondo e, piuttosto che imbrancarsi con gente come che sia, preferiva tenersi compagnia da sé davanti allo specchio, pavoneggiandosi nell'ammirazione della sua elegante figura. Infatuato di sé, egli stava là, ritto, fiero, occhieggiando intorno, senza né vedere né sentire le bellezze del lago e dei monti. Dall'albergo del Persico una gazzarra di fanciulle sciamò sulla piazzetta con vivacità giovanile. Era una combriccola di belle sartine venute dalla città per godere la festa dell'indomani. Le capitanava la padrona, accompagnata dal marito, unico maschio della partita. Le ragazze, strette a braccetto, a due, a tre, con vestitini di ogni colore, inguantate, incappellate, avevano svolazzi e trine dappertutto. Avevano pranzato con un minestrone, un pezzettino di stufato, un bicchiere di vinello. Non ci stava altro nella strangolatura del busto. Non di meno, saettavano dagli occhi faville di matta allegria e sfarfallavano nella piazzetta con la chiassosa vivacità che viene dalla giovinezza spensierata. Un po' di sole, un poco di aria e di libertà. Ed ecco che le rondinelle filinguellavano, in memoria delle angustie della loro esistenza mingherlina. In casa vivevano fra uscio e muro, pigiate entro bugigattoli asfissianti, nutrite di latte annacquato e di riso e fagioli. Vessate, avvilite ogni giorno dalle brontolate del padre e dalla soperchieria dei fratelli, per via di sacrifici e di sotterfugi riuscivano a comperarsi i cenci per vestirsi e le scarpette alla moda, agucchiando giorno e notte, rovinandosi gli occhi e lo stomaco, pur di godersi alla domenica la varietà di una passeggiata trionfale. Le campane della parrocchia sbattagliavano suoni di festa. Frotte di birichini si rincorrevano nella piazzetta fra le piante e le gambe della gente. Gruppi di villeggianti con bambini e governanti occupavano il di fuori dei caffè. Volta a volta sopraggiungevano altre signore, accompagnate da cavalieri in zimarra bianca e paname in testa. Le sartine, vestite come principesse, facevano commenti e risate sulle toilette troppo semplici delle signore. Un organino a piano, fermo dinanzi al caffè principale, intonò un valzer in gran voga. Le belle sartine ondeggiavano in un brisciamento voluttuoso. Quella musica civettuola, leziosa, cacciava un subbuglio fra le sottane e un fermento diabolico nelle gambe. Le campane della parrocchia sbatacchiavano senza posa, l'organino frinfrinava, dal lago venivano ondate di cantilene, vociate in coro da comitive di popolani che a barcate convenivano a Orta per la festa. Dovunque ferveva una baldanza chiassosa di tripudio. Il professore Fernando Amadeo passeggiava da un pezzo fra la gente, cercando con l'occhio i coniugi Gibella, ma dovette aspettare del tempo. Erano le 6 quando Gaudenzio e Martina scantonarono in piazza. Non avevano veduto il magnifico tramonto, ma avevano dormito benissimo, tutto d'un fiato, fino a quell'ora. «Peccato!» disse il professore salutandoli. «Se arrivavano mezz'ora prima, c'era un superbo spettacolo di sole!» «Ah, fa lì stesso!» rispose Gaudenzio. «E il sol l'è sempre quel de ieri!» «Per il pranzo è un po' presto, facciamo una passeggiata verso le ville!» «Sì, e così vegnerà l'appetito», rispose Martina. Decisamente quel professore era una perla. Si incamminarono, cominciava ad imbrunire. Martina, con la sua schiena ossuta, lucente di seta, imprigionata nel busto, occhieggiava sbadata qua e là, senza por mente ai discorsi di Gaudenzio col professore. Il droghiere, intanto, un passo dietro l'altro, si metteva in intimità con il suo nuovo amico e già era dietro a raccontargli i suoi interessi di famiglia. Ormai, diceva, egli era tranquillo. Il suo primo figliuolo, Leopoldo, era abile quanto lui nel maneggio degli affari e le due figlie sorvegliavano il resto. La casa che abitava era sua e poi aveva anche un piccolo podere, oltre ad un gruzzolo di risparmi in cedole. Il professore stava a sentirlo con la cortese compiacenza delle persone educate e Gaudenzio, incoraggiato, andava più in fondo negli intimi particolari di famiglia. Per esempio, quel suo unico figliuolo, quel benedetto Leopoldo, anni addietro gli aveva dato dei fastidi per un suo amorazzo con la figlia dell'oste. Una civettina che a furia di amoreggiare con questo e con quello aveva finito per trovarsi col grembiale troppo stretto. E quel baggeo di suo figlio si pigliava sul serio la paternità e sarebbe andato fino alla bestialità di sposare quella rosina senza meriti e senza quattrini. Per fortuna la sua Martina ha il muso duro e a fargliela ci vogliono tutti i santi diavoli. Fu lei che si cavò d'impiccio obbligando l'oste e la figlia a metter Berta in sacco. Adesso non c'era più pericolo di matrimonio perché Rosina era morta da quasi 4 anni dando alla luce un bambino. È vero che le comari del paese andavano proclamando che quel marmocchio somigliava tutto a Leopoldo, ma quelle erano chiacchiere di ciane. Il grave era qui. Ora che non c'era più la Rosina, il suo Leopoldo si era innamorato del bambino e non voleva saperne di maritarsi e strepitava, giurando di voler riconoscerlo legalmente, perché sentiva proprio in coscienza di essere suo padre. Figurarsi! Il professore pareva impressionato dal racconto, ma non mise bocca in proposito. Alla fine di questa storia, che si era svolta per le lunghe, si trovarono tutti e tre alla trattoria del Merlo Bianco, pronti e ben disposti a mettersi in tavola. Era notte fatta. Il professore, sedendosi, disse ai suoi commensali che ognuno doveva ordinare di suo gusto, senza complimenti, che egli non aveva molto appetito e gli bastavano 2 uova al tegame, un brodo e 1/5 di vino. Gaudenzio ordinò lesso di manzo, minestra e fritto di rognoni. Le sale della locanda erano fumide di emanazione di sughi, si sentiva dappertutto il tanfo e il tepore della cucina. La sala da pranzo, col soffitto giallo di fuliggine e le pareti di intonaco chiazzato di umidità, era scarsamente rischiarata dalla lampada di mezzo. Sor Gaudenzio fece portare una candela e subito la tavola apparve più allegra e l'appetito più pronto. Buono il lesso, buona la minestra, eccellente il fritto di rognoni e il vinello andava giù così liscio che Sor Gaudenzio dovette presto ordinare un altro mezzo litro. Quel buon pasto diede un po' di tono anche a Madama Martina, la quale, senza badarci, aveva bevuto un dito di più e un po' per il chiuso, un po' per il resto, si sentiva un gran caldo nelle orecchie. Gaudenzio, stimolato dall'allegria, ordinò una fonduta con tartufi, malgrado le opposizioni di Martina, che voleva sbrigarsi per uscire all'aria fresca. Ma qui si sta bene. Martina, rassegnandosi, trovò il modo di slacciarsi un crocchetto del busto e per stare ancora meglio smollò la solita scarpetta. Il professore si era spicciato già da un pezzo del suo pranzo e stava lì con l'ultimo sgocciolo nel bicchiere, piegandosi ai discorsi dei suoi commensali come venivano. L'affabile e franca espansività del signor Gaudenzio gli andava a genio e soprattutto gli piaceva la schiettezza popolana che costituiva il buon fondo del droghiere, uomo greggio, un po' impiattito dalle consuetudini bottegaie, ma con residui abbondanti di buon senso e di buon cuore. Madama Martina invece era più tollerata che accetta al professore. Ella aveva troppi scatti di violenza plebea, rabbiuzze, dispettucci volgari troppo pronti. Tutto sommato il professore, animo mite, raccolto e alquanto ipocondriaco, si compiaceva di quei suoi compagni che lo tenevano in chiacchiere senza preoccupazioni. Egli visitava la riviera di Orta raccogliendo documenti, memorie e tradizioni per compilare una monografia storica, illustrativa del lago e dei suoi dintorni. In questo modo il professor Amadeo risolveva un problema economico, perché la retribuzione dell'editore gli compensava le spese della campagna, si sfogava nelle investigazioni storiche che erano la sua passione ed impiegava il suo tempo senza annoiarsi. Sor Gaudenzio, già da un pezzo, ruminava fra se stesso sul modo migliore di dare una dimostrazione di amicizia al caro professore, ma non osava pronunziarsi. Il suo nuovo amico, con quell'aria di uomo modesto, lo metteva in grande soggezione. Egli aveva ben compreso che il professore non poteva essere largo di borsa, santo Dio, colazione, caffè e latte, pranzo, due ovicini e un brodo. Ah, si sa, questi poveri diavoli di maestri tirano sempre al verde che è una pietà. Non di meno, Gaudenzio sentiva un profondo rispetto per quel personaggio così modesto. Intuiva vagamente che i denari sono una cosa, ma che quel professore era un uomo di testa. «Signor professore», esclamò il droghiere decidendosi, «se mi permette l'onore, offro una bottiglia alla sua salute». «Oh, grazie, grazie, non sono solito, caro signor Gaudenzio, è come se avessi accettato». Ma Gaudenzio era fisso e insistette con tanta buona voglia che il professore, per non vederlo alla disperazione, accettò. Venne la bottiglia. «Alla sua salute, professore, e se viene per caso a San Nazaro, non se desmentigherà degli amici!» Il professore ringraziò e ingollò di un sorso il suo bicchierino come per spicciarsene presto. Non l'aveva ancor posato in tavola che era già colmo e dovette di nuovo toccare e bere. «De Diana, questo che chi l'è Barolo proprio galantomo!» «Oh, è corroborante!» «Allora, un alter bicchierino non fa male, e il travie i fastidi!» Il professore sorrise e lasciò fare. «Andandà?» chiese Martina, ma Gaudenzio non rispose nemmanco, vuotò il suo bicchiere e colmò quello dell'altro. «Caro signor Gaudenzio!» esclamò all'improvviso il professore porgendogli la mano. «Io mi ricorderò lungamente di lei!» Oh, ma che dice? L'onore, il piacere, le noster. Una persona di riguardo come lui. Basta, lasciamola lì. Ancora un bicchiere, professore? E perché no? Rispose il professore allegro come se allora si risvegliasse. Bravo, bravo, così mi piace. E versò. Quel barolo era proprio buono e, aiutato dal caldo dell'ambiente, fece sì che in breve gli occhi del professore luccicassero di insolita vivezza. Professore, domani godremo la festa di Orta. Poi el venga con noi a Omegna. Staremo alleger. Oh, grazie, ma io devo rimanere qui per le mie ricerche. Ah, l'ha perduto qualcosa? No, no, faccio delle ricerche storiche intorno al lago. Devo scrivere una memoria. Ieri fui espressamente a Novara e ho trovato in quell'archivio documenti interessantissimi. Ma bravo, professore! Oh, mi lo capì da subito che lui era un uomo de testa! Il professore era in vena. Ingollò il quarto o quinto bicchierino e subito rispose: Vede, vede qui, queste sono tutte memorie che ho preso qua e colà, e su in camera ne ho un altro volumaccio. Ma è proprio un lavoro interessante, sa? La storia di questa riviera è ricchissima di belle tradizioni. Entendà? Ridomandò secco Martina, che già cominciava ad averne abbastanza. Sor Gaudenzio, sebbene un po' biordo, comprese tutta la sconvenienza dell'interruzione e rispose vibrato. Te get la frega de andà sempre in gir? Mighe no a sé de sta in pè. Martina, che già era accesa, diventò vermiglia, balenò dagli occhi un lampo di collera compressa e stette muta, mandando giù l'amaro. Gaudenzio, per farle dispetto, finse di interessarsi vien meglio dei discorsi del professore. E per rompere subito il breve intervallo di silenzio, chiese: Che il dica un poco, quell'isola lì de San Giulio, l'è proprio un'antichità? Il professore, con gli occhi mareggianti in letizia, abboccò subito con piacere. Oh, geologicamente parlando, l'origine dell'isola si perde nella notte dei tempi. È un piccolo nucleo di gneis micaschisto. O più probabilmente una formazione granitica con sovrapposizione di altre composizioni mineralogiche. Ma Desi, l'è un bel pezzo di tempo che laghè quell'isola lì. E il professore subito con enfasi. Chi può mai calcolare il tempo dei grandi periodi geologici? In faccia all'eternità della natura, i fenomeni più remoti dell'età archeolitica sono avvenimenti di ieri. L'evoluzione paleontologica e l'ontogenia, confrontate con l'anatomia comparata, possono lanciare qualche barlume sull'età relativa degli organismi, ma sul resto, buio pesto. Cuvier è contraddetto, Lyell non si pronunzia. Dunque, se il grande Lyell non si pronunzia, caro signor Gaudenzio, lasciamola lì. La semola pura, mi tanto in queste robe sono un asino. E sperava di cavarsela così. Ma, ripigliò il professore animandosi sempre più, ma dove invece si vede chiaro con la scorta dei documenti e delle tradizioni è nella parte che concerne l'etnografia della riviera, ovvero sia le varie vicende dei suoi abitatori e le diverse sovrapposizioni delle razze. Sor Gaudenzio voleva ben dire al professore che sprecava il suo fiato, ma non ebbe il tempo. Il professore gli tappò la bocca continuando subito con più ardore. Siconi, Uceni e Iconi. Certo è che la denominazione di lago Incusio e quella dei dintorni Allora hanno tutte Gaudenzio radici guardò con occhio etimologiche che smarrito ricordano sua gli uceni. moglie, come Ecco, supplicandola di ripetere la Uceni, proposta di andarsene, Incusi, ma la signora Martina non volle proprio indovinare. Cominciava a vendicarsi. Il professore non badava più allo sgomento che crucciava la faccia del suo compare. Egli adesso andava innanzi per suo conto, disputava calorosamente, illudendosi forse di avere di fronte non un povero tapino di droghiere, ma un collega stanno a accademico capo capace di l'itinerario di confutarlo. Antonino Pio. Et ex lacu cusio deductum. Del resto, Gaudenzio dicevamo, anche guardò la l'ottava moglie implorando dell'italiano per Traiano misericordia portava che lo cavasse da quelle panie. Ma la signora Martina invece si accomodò ancora meglio coi gomiti sulla tavola. Il professore sgocciolò l'ultimo fondo della bottiglia e continuò al galoppo. Sor Gaudenzio si pigliava quella zuppa senza rifiatare, ma si sentiva nella testa un torpore indicibile. E che gliene importava a lui, pover'uomo, di tutte quelle storie che gli mettevano addosso una sonnolenza di piombo? Era lì, sotto le tanaglie, e non poteva neanche, senza fare una sconvenienza, abbandonarsi al sonno che lo pigliava da tutte le parti. Ah, no, no, per carità, tanto mi giuri che sono un ignorante e capissi niente. Piuttosto, soggiunse il droghiere guardando con dolcezza la moglie, piuttosto sarà meglio andar fuori, un po' all'aria. E Martina subito gli rinfacciò secco. Mi sto benissimo chi, gonò la frega d'andar in giro. Era un pezzo che Martina lo aspettava a questo tiro di rappresaglia birbona. Gaudenzio ebbe una vampa di collera, ma si limitò ad un brontolamento ringhioso e si abbandonò rassegnato nelle mani del professore, il quale, con l'occhio acceso, aveva già riattaccato la conferenza. Ma Remi Molfo, parteggiando per i Franchi, ebbe infauste le sorti. Astolfo, duca di Torino, eletto re dai Longobardi, assediò l'isola, prese Mimulfo e gli fece mozzare la testa, come risulta da una cronistoria del 591. Già che era fatta e bisognava starci, Gaudenzio, che si sentiva turgido, smollò la fibbia dei calzoni e senza rispetto si sdraiò coi gomiti sulla tavola. E il professore avanti a tempestarlo con la sua ninna nanna storica. Va là, Peppin, cicciara pur che mi capissi tutto. E così, per un'altra mezz'ora, il professore scatenò tutta la sua erudizione. Tanto fa, Gaudenzio ormai si pigliava le battiture a corpo morto. Nel cervello annebbiato gli baluginavano come care, soavi ricordanze il suo bel lettone di San Nazzaro, la berretta da notte, il cavastivali. E quando aveva un barlume di coscienza del supplizio che gli dava quel ciangolone di professore, pensava: accidenti, che botta! Va là, tirenaz bagolon, d'un bagolon, a me mi importa un fixe di tocciacciarad. E ricascava nella sonnolenza. Madama Martina già da un pezzo dormiva coi gomiti sulla tavola e la testa sulle mani. Il professore si accorse che i suoi uditori ronfiavano in duetto. Di botto si arrestò. Si levò lentamente in piedi, considerando alquanto quelle due teste addormentate, le benedisse così: «Io sto a scavezzarmi e voi altri dormite come caproni, con tutto il vostro ben di Dio, la vostra casa, il vostro fondaco, non sarete mai altro che pecore da strupo. Oh, beata falange degli ignoranti, tu andrai dritta nel paradiso delle oche». Il professore si ritirò, lasciando i Gibella sulla tavola, immersi in un sonno profondo. Silvia Pasello ha letto Alpinisti ciabattoni di Achille Giovanni Cagna, con musiche di Ares Tavolazzi. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad Alta Voce è un programma Rai Radio 3.